Eccoci. Buonasera, buonasera a tutti, tutti, tutti, tutti quanti. Allora, Dai. questa puntata molto particolare. Sì, si articolerà fra guerra È e pace. pace. Quindi iniziamo con Aspetta, vai, una continua. bella marcia, una bella marcia di guerra. La marcia di guerra. No, aspetta, prima parliamo, dai, spiega Ah, ho perché. sbagliato, non è la marcia No, di non ti guerra. È un preoccupare. discorso. Sì, è un È un discorso che discorso. noi andiamo a ricercare nel Perché l'hai frattempo. perso? Esatto, perché Minchia, era già sei assurdo, partito. sei Era già assurdo. partito, dai. Iniziamo con un discorso, il discorso di Full Metal Jacket, del capitano, come si chiamava? Io Ah, sei mi un ricordo solo cadavere. Palla di Del merda, la balla di sergente Lardo. Sergente, no, Hartman. Sergente Hartman Che e palla. cazzo dici? Cosa Brutta dice? palla di Lardo. La testa ti fece in bocca. Comunque, Sì, partiamo vabbè, con il partiamo sergente Hartman e per capire un questo. po' qua il delirio di quello che è la guerra, sia in preparazione, quindi proprio dei soldati, fino ad arrivare a quello che sta succedendo oggi in Crimea. Vogliamo fare un Il po' nostro un salto oggi, caro no? ex del KGB, presidente della più grande potenza europea, eurasiatica direi, ovvero della Russia, che ha deciso così di arrivare in Crimea, che è un territorio ucraino, arrivare lì con i suoi con il suo esercito, con i suoi bravi carri armatini, la sua brava contraerea, bello, tutti lì, come se arrivassero in Italia gli americani e decidessero Tutti di. così tranquilli. Però abbiamo fatto una scommessa oggi, la vogliamo fare adesso, così tutti ci ascoltano. Riccardo dice che scoppierà una guerra. Io dico che finirà tutto in una Bolla di sapone. nuvola di fumo, bolla di sapone, perché quando ci sono due potenze in atto, come l'America e la Russia, non succede mai Ma niente. infatti, come nella seconda guerra mondiale, come nella prima, Vabbè, non allora noi succede. facciamo questa gran scommessa. Ci scommettiamo che se scoppia la guerra mondiale e vinci tu, ti regalo una scorta d'acqua infinita. Se invece non scoppia niente, mi regali 20 euro. 50 euro. Ti piacciono Facciamo un gioiello in oro. i 50 euro? Un gioiellino oro, perfetto, Che perfetto. se tu un Stiamo gioiellino parlando troppo, c'è gente sì, Hartman. Hartman. Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto. E la prima e l'ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà signore. Tutto chiaro, luridissimi vermi? Sì, signore! Ah, che cazzo Tutto non... chiaro? Rispondete come se le aveste davvero! Sì, signore! Se voi, signore... Pezzi marrino, pezzi marrino, pezzi marrino! ...arriverete all'addestramento, sarete un'arma. Sarete dispensatori di morte, pregherete per combattere. Ma fino a quel giorno... Siete uno sputo, la più bassa forma di vita che ci sia nel globo. Non siete neanche fattuti esseri umani. Sarete solo pezzi informi di materia organica anfibia comunemente detta merda. Dato che sono un duro non mi aspetto di piacervi. Ma più mi odierete più imparerete. Io sono un duro però sono giusto. Qui non si fanno distinzioni razziali. Qui si rispetta gentaglia come negri, ebrei, italiani o messicani. Qui vige l'eguaglianza, non conta un cazzo nessuno. I miei ordini sono di scremare tutti quelli che non hanno le palle necessarie per servire nel mio beneamato corpo. Capito bene, luridissimi vermi? Sì, signore! Ma che cazzo non vi ho sentito? Sì, signore! Come ti chiami, faccia di merda? Signore, soldato Brown, signore! Palle, d'ora in poi tu sei il soldato Biancaneve. Ti piace questo nome? Sì, certo, signore! C'è una cosa che non ti piacerà, soldato Biancaneve. Non si serve il piatto negro nazionale, né pollo fritto, né cocomero alla mia mensa. Sì, certo, signore! Sei proprio tu, John Wayne? E io chi sarei? Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Chi è quel lurido stronzo comunista checca pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte? Ah, non è nessuno, eh? Sarà stata la fatina buona del cazzo! Vi ammazzo a forza di ginnastica, vi faccio venire i muscoli al buco del culo! Che ci potrete succhiare il latte senza cannuccia? Allora, sei stato per caso tu, brutta stronza? Signor no, signore! Brutto pezzo di merda con la faccia da verme, scommetto che sei stato tu! Signor no, signore! Signore, l'ho detto io, signore! Però, senti, senti, abbiamo tra noi un attore comico, il soldato Joker. Io ammiro la sincerità. Però, Sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia... Sarai mica tu, John Wayne? Brutto sacco di merda! Io ti metto sotto! Ti farò un culo così! Qui tu non riderai! Tu non piangerai! Qui si riga diritto e basta! Ti faccio vedere io! Alzati in piedi, tirati su! Datti subito una regolata, amico mio, se no io ti sbito il cranio e ti cago in gola! Signor, sì, certo, signore! Andato, Joker, perché sei qui nel mio benemato corpo! Signore, per uccidere, signore! Allora tu sei un killer! Signor, sì, signore! Fammi una faccia da guerra! Signor, sì, signore! Una faccia da guerra? Ah! La mia è una faccia da guerra, avanti con la tua faccia da guerra! Ah! Manco per il cazzo, non fai paura a nessuno, voglio una faccia da guerra vera! No! Non mi fai paura, ti ci devi applicare! Signor, sì, signore! E tu che scusa hai? Signore, scusa di che, signore? Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro? Signor, sì, signore! Bene, grazie mille, ti dispiace se comando io per un po'? Signor, no, signore! Sei un po' emozionato, sei un po' nervoso? Signor, sì, nervoso, signore! Sono io che ti rendo nervoso? Signore! Signore, cosa? Avevi mica intenzione di darmi dello stronzo? Signor, no, signore! Quanto sei alto, soldato? Signore, 1,73, signore! 1,73 prima non facevano pile di merda così alte! Cerchi anche di fregarmi qualche centimetro, eh? Signor, no, signore! Ah, è chiaro, io dico che la parte migliore dello schizzo da cui sei nato è colata tra le chiappe di tua madre ed ha macchiato il materasso! T'hanno fatto con lo scarto! Da dove cazzo vieni comunque, soldato? Signore, Texas, signore! Strano, io ho sempre saputo che nel Texas ci nascono solo tori, e che soldato cowboy! Tu l'aria del toro non ce l'hai neanche un po' e quindi il cerchio si restringe! Tu succhi cazzi? Signor no, signore! Ti soffi dentro per gonfiarli? Signor no, signore! Io scommetto che tu sei uno di quegli ingrati che lo mette in culo a qualche poveraccio senza usargli la cortesia di menarglielo davanti per sdebitarsi! Ti terrò d'occhio! I tuoi genitori hanno anche figli normali? Signor sì, signore! Ti saranno pentiti di averti fatto! Tu sei talmente brutto che sembri un capolavoro d'arte moderna! Come ti chiami, sacco di lardo? Signore, Lennon, Lawrence, signore! Lawrence, Lawrence come, d'Arabia? Signor no, signore! Il tuo è un nome da nobili! Tu sei di sangue reale? Signor no, signore! E tu li succhi, cazzi? Signor no, signore! Palle, tu ti succhi una pallina da un capo all'altro del tubo per innaffiare! Signor no, signore! Non mi piace il nome Lawrence! Solo finocchi e marinai si chiamano Lawrence! D'ora in poi tu sarai palla di lardo! Signor sì, signore! Ti trovi carino, soldato palla di lardo? Ti sembro buffo? Signor no, signore! Allora strappati dal grugno quel sorriso da stronzo! Signor sì, signore! Bene, prenditela pure comoda, tesoro! Signore, ci provo, signore! Palla di lardo, ho deciso di darti 3 secondi! Esattamente 3 fottuti secondi! Per toglierti quel sorriso da cretino dal muso! In caso contrario ti strappo le palle dagli occhi e ti fotto il cervello! 1, 2, 3! Signore, non ci riesco, signore! Palle! Mettiti in ginocchio, sacco di merda! Eccoci, ma questa è per contare. Questa è un'apertura un po' strana, ma la nuova jingle, diciamo. L'apertura da come nasce la guerra, da come quello che mettono dentro la merda, che mettono dentro la testa dei ragazzi. Prima quando gli fanno... C'è anche da dire, comunque, vabbè, questa è una segnalazione veramente timida, anche se... No, per gli americani non lo so fino a che calmiamoci, esagerazione non è. Già qua in Italia quando mi ha fatto la leva mi ha raccontato cose che sono allucinanti, proprio allucinanti. Va. E comunque che hanno tolto la leva, secondo me è sbagliato. Secondo me è sbagliato. Ah, ma devi mettere la cuore in no, pace. No, la leva è giusta. La leva è giusta perché fa crescere. Fa crescere molto. Invece di hanno tolto la leva, giusto? Fanno fare lavori socialmente utili. Servizio civile. Un anno. Aspetta, ma per forza. Per forza. Sì, vabbè, ma non ti dà nulla. Io ho fatto il servizio civile. Non è che mi ha dato. Ma beh, almeno ti fai una. Non so. Ecco, la leva è importante per questo. Perché tu uscivi un po' le palle e imparavi un po' a vivere. Esatto, capisci? Però tu ti stai, mi stai dando il. Stiamo dando il due segnali contraddittori. Da un lato dici che è merda tutto quello che abbiamo appena fatto vedere da Full Metal Jacket. Abbiamo fatto sentire da Full Metal Jacket. Dall'altro dici che però è formativo. Per i ragazzi è formativo, sì. Cosa? Essere presi a parolacce? Sì. Sì che è formativo. Scusa, ma ti rendi no, conto No, ma che... perché? Ti sto dicendo che... Compagno, mettere dicendo... quello in pace. No, no, ti sto dicendo che è formativo perché in un certo senso ti devi stare zitto e devi fare quello... Ormai i ragazzi non si stanno più zitti e fanno quello che gli viene detto, punto. Stai zitto, fallo e basta. Perché lo devo fare? No, tu zitto, lo fai e basta. Ormai non c'è più questa cosa. Ormai... Non c'è più il fatto, ah, è più grande di me, mi sta dicendo una cosa, appunto lo faccio e basta. Beh, in teoria ci sarebbe la scuola, però il problema cioè... è quando tu vai a scuola... Che gli insegnanti si fanno sputare in mucca, onestamente, oggi come oggi. Lasciamo perdere. Si fanno sputare in mucca perché ci sono i genitori che ti spaccano culo appena sbagli. Le palle dove sono dell'insegnante? Le palle? E io devo accollarmi di avere la boccia di tutti i genitori per un cazzittello. Che me ne frega, scusa. Ma tu lo devi cazziare. Se sbaglia, tu lo cazzi fuori dalla classe. Nel senso, oh, ma il genitore viene e ti dice: ma mio figlio, che minchia vuole? Pure lei è una merda. Lei e suo figlio pure. Ma stiamo scherzando, Ricca? Io quando sento queste cose divento pazzo, per cortesia. Divento folle. E quindi, quando ti viene il genitore, perché io ne ho viste di cose all'alberghiero, lo possiamo dire, forse. Io ne ho viste di cose quando venivano i genitori a parlare e dicevano: ah, ma mio figlio è bravo, mio figlio è troppo bravo. Intanto chi dovevo fare un cazzo, si faceva i canne in bagno. Mio figlio è troppo bravo, mio figlio è... Ma come si è permesso lei di alzare la voce con mio figlio? Ma stiamo scherzando, come si è permesso lei? Io sono un insegnante... E devo formare. Io ti dico che nella scuola dove andavo io l'anno scorso c'è andato un mio collega. Sono andato a ritrovare la preside, eccetera. E si è dovuto dimettere perché i genitori, siccome lui si era incavolato in classe e ho cominciato a prendere la parolaccia a tutti quanti, si è dovuto dimettere perché sapeva che i genitori si erano messi d'accordo per fargli il boccione appena usciva da scuola. Quindi il giorno stesso lui si è dimesso e il giorno dopo non è più andato a lavorare. Le palle di un, ecco, ecco la leva che cosa serve. No, per dire, nel senso, ma stiamo scherzando, ragazzi? Ma che stiamo scherzando veramente? Vabbè, non ti dico il quartiere dove che era, però. Ma me ne sbatto la minchia, uno può essere pure del quartiere, dei quartieri spagnoli di Napoli, ma me ne sbatto il cazzo. Ragazzi, non stiamo scherzando, io devo formare tuo figlio. Se tuo figlio è una merda e tu a casa gli fai sputare in bocca a sua madre, mica può venire a scuola, mi può sputare in bocca a me e mi devo stare zitto e non lo posso cazziare perché ho paura che tu, padre di questo figlio, vieni e ti incazzi. Ma stiamo scherzando. Vabbè, continuiamo con il ciclo guerra e ascoltiamo i Cranberry che parla di zombie, ovvero gli uomini morti prima ancora di nascere. E se i Cranberry parlano, Dolores Riordan parla della guerra di secessione che c'è stata e che c'è in realtà ancora tuttora, anche se sono in Inghilterra. No, ma è la guerra di dell'Irlanda, irlandesi contro gli americani, gli inglesi. Ma non sono mai stati d'accordo. Non sono mai d'accordo. Gli irlandesi. Io gli irlandesi. Infatti, comunque l'Irlanda è nord. Comunque gli irlandesi sono molto bastardi. Io sono stato in Inghilterra. Gli irlandesi che ho conosciuti, minchia. Cranberry, zombie. Mettiamo guerra. Elia, adesso tu mi devi spiegare perché io sono Tashu. E comunque parolacce oggi non ne ho dette, eh? Ancora ce n'è da dire, ora ci dobbiamo scannare il Riccardo, non avete visto niente. Pietro Sittascio. 1916. Dai, ed ecco che vi presento il nuovo Pietro, educato, carino e cordiale. Wow. Allora ragazzi, vorrei parlarvi di... Va bene così, Noelia? Comunque, lasciamo a parte la voce gay. A parte la voce gay appunto di... Qui il nostro Riccardo ora ci esporrà, come stavo dicendo poc'anzi, della guerra di Kiev. Prego, no. Riccardo. No, non è che c'è, io non ti espongo niente, però anche rifacendomi a quello che dicevi tu, adesso che c'è l'invasione russa in Irlanda, vabbè, pure io mi sto spappinando. Il secondo sei tu. No, il secondo non sono io, quindi... No. Qua c'è un bell'articolo. Io vorrei fare il solito saluto a Beatrice, la nostra migliore ascoltatrice. Ciao Bea. La nostra migliore ascoltatrice. Fa pure rima, Bebe. Ciao Bebe. Che Bea. Allora, c'è un articolo che parla di un'intervista che è stata fatta a uno dei militari ucraini che si trova praticamente rinchiuso dentro la sua base in Crimea. Ora, la cosa assurda è che questo soldato è un soldato di origine russe che si trova con le nastrine, le mostrine della Ucraina, che lui vuole combattere, però non sa, non sa che cosa fare, e si trova tirato per la giacchetta, ora ci vuole da un lato e dall'altro. E questo qua dice, ma da me che cosa vorrebbero? Che uscissi fuori da qui e combattere contro questi qui? Ma siete scemi, praticamente. Era quello che dicevamo poco fa. E io ti dovrei mettere a combattere questi mangabei che ci sono qua. Io vado alla scuola, faccio il mio lavoro, altro che... Il problema è quando lo devi fare per forza. Quando lo devi... quindi hai un muro e dici, o faccio questo... Ma infatti a lui dicono di non fare nulla. Dice, praticamente, qua spiega, arriva ad un certo punto, tutto è cominciato la mattina di domenica, dopo la adunata e prima delle esercitazioni quotidiane, i ragazzi della base hanno visto davanti ai loro cancelli che c'erano dei colleghi con armi nuove di zecca, pasta montagna sul viso e un armamento invidiabile. E chi sono questi? Russi, americani? E noi che dobbiamo fare? Risposta? Niente, fate come se non ci fossero. Cioè, questa è la risposta ufficiale che i loro comandanti hanno dato. La voce di Andrew, che è il ragazzo intervistato, si fa stridula. Capite? Mi addestro da anni per combattere e poi mi ritrovo preso in ostaggio da sconosciuti. Orgoglio da soldato, dice l'articolista, e perplessità da cittadino. Andri, che anche lui di origine russa, come la maggior parte degli abitanti di Crimea, detesta quelli della rivoluzione di Kiev. La sua famiglia abita lì vicino, a una decina di minuti di marcia da qui. Vanno in piazza ad applaudire l'intervento di Putin. Li capisco, dice, e li condivido pure. Ma io sono un soldato o no? Cioè, quindi è completamente preso che non sa che cavolo fare. Né da un lato né dall'altro. Vabbè, poi... ma se in un certo senso gli dicono di evitare, meglio evitare. Dico, sì. Nega uno può fare l'eroe, onestamente. Esatto. No? Poi arriva ad un certo punto e dice che praticamente in camerata ci sono lo tirano dalla giacchetta da un lato dall'altro. Quindi dice che ogni tanto passa un foglio da firmare con il giuramento di fedeltà alla Repubblica Autonoma di Crimea. Quindi contro... contro l'Ucraina praticamente, e lui dice: io non firmo, ho giurato fedeltà all'intera Ucraina. Tecnicamente è un tradimento, quindi è una questione anche sua di coscienza. E poi rimarca un aspetto meno nobile ma fondamentale: e se poi si mettono d'accordo, a me che succede? Cioè, questi poi fanno pace, no, non abbiamo scherzato. E intanto spunta che lui ha firmato per la Repubblica Autonoma e quindi la sua carriera militare è finita. E poi dice, dall'altro lato entra in caserma, dice che è arrivato Oleksandr Kosmus, che è stato per anni ministro della difesa ucraina, e si è messo là a parlare con modi, con gergo e modi da consumato militare, e diceva a ognuno di resistere, che qualcuno a Kiev stava studiando un piano per cacciare i russi e che presto l'operazione sarebbe cominciata. E poi dice, a parte che io non ho niente contro questi ragazzi venuti dalla Russia, ragioniamo da un punto di vista di pura tecnica militare, ci schiaccerebbero senza nemmeno sforzarsi troppo. Tutto questo mentre lo stesso quando Putin si mette a fare un bel discorso alla nazione, un bel discorso a tutti quanti, si mette a dire, minacciare l'Ucraina, si mette da un lato a minacciare l'Ucraina, dall'altro si mette a dire no, non vi preoccupate, non succede niente, e nello stesso giorno sparte un test missilistico di un missile, appunto. Vabbè, più che altro che è capace. Paura. Sì, ma infatti. Ma è tutto fumo e niente arrosto. Capito come dico io? Fino a un certo punto. Intanto l'America sta già cominciando con le proprie. Sequestrando praticamente tutti i beni che c'hanno i russi in America. In tutti le. L'America e la Russia. Bloccando allora, i conti. Ti dico una cosa: la Russia vende il gas. Vende il gas a tutta l'Europa. Penso che lo sai, no? Sì, infatti. Tu lo sai che se la Russia si smuove coglioni, infatti, per questo che coglioni, siamo... taglia il gas a tutte, so. E noi moriamo. E secondo te perché siamo finiti? Secondo te perché la Germania è messa che tratta con Putin? Ma noi abbiamo. Sì, aspetta, ma noi abbiamo l'America a nostro vantaggio. Perché se a noi ci taglia il gas, la Russia. Noi siamo costretti, almeno abbiamo il sacrosanto diritto di chiedere aiuto all'America. Il problema è che l'America ma l'America interviene in quel caso e deve intervenire per forza. Il problema lo sai qual è? Che la guerra sarà a casa nostra, in Europa, perché noi siamo in mezzo a questi due grandi stati, queste due grandi potenze, e in mezzo chi è che se la becca nel culo? L'Europa. Si becca i missili, si becca non tutte solo. Cose. Ma il problema è che la maggior parte se volessimo fare delle sanzioni economiche per cercare di... Aspetta, c'è la Cina che non scherza. Lo so. Che è con la Russia. Mettiamola più semplice. Se dovessimo fare l'embargo alla Russia come chiedono gli Stati Uniti che è minima gli affari che fanno con i russi. Noi arriviamo al 30% delle esportazioni. Bravo. Che poi la cosa assurda è che noi adesso l'abbiamo. Animal di Martin Garrix. Come? Sì. Martin Garrix, Animals. Spinning TV. Eddie, rieccoci, rieccoci in on air. On air. Quindi, Beatrice, vai a cacare. Comunque è una cosa mia di Beatrice questa, lei capirà. Adesso vi annuncio Phenomenon. Phenomeno. Non fenomeno, è un'altra cosa. No. Phenomeno. C'ho sempre PH si legge con l'F. Ho sempre quello in testa, lo sai, come sono vizioso. Phenomenon di Thousand Foot Crook Lyric, Clark Falkton. Hey, vai. Thousand Foot Crash dei Phenomenon. No place to hide us. All freedom fighters, let's unite us. Switch on your nitrous and let's go. Destination for navigation. Man up your stations, feel the sensation. Surround invasion with communication. Move quick, we might avoid contamination. Down, it comes the sound. Everyone now, your feet to this phenomenon. Now, let's make it land and show them all how you move to this phenomenon. Whoa, open your soul, maybe lose control inside of this phenomenon. Just let yourself go and let everyone know. Riccardo, non leccarlo, non leccare il microfono. Ammalato forte. Sorry Mick. Sì, un pezzi pazzi. Questo pupazzi. To this phenomenon now, let's make it loud and show them all how you move to this phenomenon. Roll open your soul, maybe lose control inside of this phenomenon. Just let yourself go and let everyone know you move to this phenomenon. You move to this phenomenon. You move to this. Rieccoci. Sempre rieccoci, dici tu, eh? Rieccoci. Ci sta, ogni, rieccoci. Ogni caso. Vabbè, allora, niente, rieccoci. Allora, volevo dire, ora mettiamo una canzone che è tutto esaurito di Mudimbi e Lorenzo, che hanno fatto anche una bella canzone che si intitola Supercalifrigida, che me l'ha fatta conoscere Giulia Martina, una mia cara amica, la mia sorellina. Non la vuole mandare Riccardo. Chissà perché. Vabbè, parla di la fellazio, di queste cose. Ma non è che si abbiamo mandato il discorso del sergente. Del sergente. Comunque. È diverso. A parte diverso. Questo, noi mandiamo questa canzone ora, tutto esaurito. Aspetta, adesso no. Aspetta. La mandiamo. Io voglio dire che. Oggi come oggi. Dovreste vederlo. Oggi come oggi. La pazzia. La follia. Che cos'è? Dimmelo tu, Riccardo. Questo dico, conviene essere pazzi, essere folli, essere fuori dagli schemi oggi come oggi. O meglio, essere uno con i piedi ben piantati a terra. Rispondi. Ma dipende da che cos'è la follia, a sto punto. Che cos'è la follia? Dimmi una definizione di follia. Follia è uno che non riesce a connettere col cervello, che è diverso. No. Invece ti sbagli, perché molte persone folli hanno fatto grandi cose, hanno fatto grandi pensieri. Secondo me la follia è ripetere, ridire sempre la stessa cosa. Scusate, Sì, siamo due malati, perché oggi stiamo molto male. Comunque non mi senti. Non ti senti perché io l'ho tolto. Ah. Comunque, dico, follia secondo me è ripetere, ripetere sempre la stessa cosa. Cioè? Essere ricchiato. I coaccio, nel senso dire sempre la stessa cosa. E questo è davvero da stupidi più che da folli. Da folli, no? Questa è follia. Questo è essere convinti di una cosa. Comunque, secondo te è buono essere folli oggi come oggi? Essere fuori dagli schemi? Essere uno che si veste strano? Uno che si fa capello strano? Folle? Uno essere... O conviene essere uno con i piedi ben piantati a terra? E seguire la vita che fanno tutti? Quindi, vivere, nasci, cresci, scuola, sposati, figli, muori. Secondo me oggi la vera follia, guardando un po' che cosa c'è in giro, la vera follia è fare quello che ti dice la testa a te. E se la testa ti dice alzati la mattina, vai a lavorare, sposati, fai figli, allora questa è la vera follia, perché la follia è quella che tu puoi scegliere di fare. Invece oggi come oggi sembra che tutto debba essere omologato nella follia, in un certo senso. Nel fare una sorta di quello che ti dice la gente, devi essere folle, devi essere fuori dagli schemi per forza. Ecco, ormai senza... è diventato il contrario. Esatto. Capito? È diventato ormai la gente. Ecco, è arrivato il momento del tè. È arrivata Rina con il tè. Grazie. Con parlate? Parliamo con siamo in radio, con la radio. Ecco. A portata di tè, grazie, con il miele. Grazie. Il tè più buono. Prego. Che c'è? Il più buono del mondo. Ecco, questo per dire che siamo nel pianerottolo caffè. Caffè. Scusi, signora mamma, potrebbe chiudere la porta? Sì, è così. Siamo in registrazione. Ma quindi... Grazie. Ma abbiamo congedato Irina e adesso riprendo col discorso. Oggi come oggi, perché io voglio fare un attacco con Woodstock. Comunque vi assicuro, oggi come oggi. A proposito di Woodstock, vi assicuro che non abbiamo fumato niente, siamo proprio così di nostro. Purtroppo no, io di sera ho fumato. Oggi. Voglio dire una cosa, dico oggi come oggi, invece dei vecchi tempi, degli anni 60, i genitori degli anni 60, i figli, dicevano ti devi comportare bene, devi fare così, così. Oggi come oggi ormai c'è troppo, come si dice? Anticonformismo. No, ci entra. I genitori sono troppo... Laschi. Laschi. Nel senso che ti lasciano fare quello che vuoi. Quindi poi alla fine dico... Che cosa dico? Cioè tu stai dicendo nello stesso giorno, nella stessa ora, tutto il contrario di tutto poco fa, no? È giusto che ci sia qualcuno che ti obblighi a fare qualcosa. Ora dice, no, perché? Io ti stavano là a fare le menate. Ma dico, in quel momento sì che c'era bisogno di fare, che fare rivoluzione. Io sono pazzo, voglio fare quello che voglio, capito che cosa intendo, hai capito quello che intendo, perché se lo capisci tu lo capiscono pure gli altri, se no sono folle, vabbè un po' folle. Mi sta dicendo che sono un idiota, se lo capisco io, lo capisco. Comunque, Madumbi, tutto esaurito, sono tutto esaurito in questo momento. Viva la mamma! Parte la bomba, porta di bonghi, parte la conga, tira di lombi, suona la tromba, o si fa festa oppure la tomba, dal menaito al noto morito, dallo sceriffo gli danno al bandito, e il party aperto ed è già partito, tutti esauriti, tutto esaurito. Pronti, parte la bomba, porta di bonghi, parte la conga, tira di lombi, suona la tromba, o si fa festa oppure la tomba, dal menaito al noto morito, dallo sceriffo gli danno al bandito, e il party aperto ed è già partito, tutti esauriti, tutto esaurito. E allora pronti, la festa è fatta, guarda se spacca, c'è anche il patacca, giacca e cravatta, l'uomo di latta, pezzo di legno, ciuffo di lacca, chi si fa sbattere tipo pignatta, qui fa una gara chi fa la più sciatta, giovane vacca, vecchia ciabatta, chi se la tira, chi se la gratta, pronti, la macarena, il vecchio pavoso che ci si sderena, scena a metà tra lo schifo e la pena, punta una tipa girata di schiena, goccio la bava fissando la natica, alla teoria vuole metterla in pratica, compra Viagra, la tipa la paga, e sul più bello si infiamma la sciatica, il party aperto ed è già partito. Lì parti aperto ed è già partito. Tutti esauriti, tutto esaurito. Tutto esaurito. Tutto esaurito. E allora pronto, muoviti gringo. Si gioca a dadi, combo da bingo. Fanno trenini, ballano il limbo. Fischi e trombette, Santo Domingo. Per i mariti, le mogli e gli amanti. Stelle filanti, lamero tanti. Braccia rubate al lavoro nei campi. Maracaibo dagli altoparlanti. Niente pietà, eccole qua. La cuccariera, bella carrà. Eter Parisi che canta cicale. Colpo di grazia, stile guata. È arrivata la fine del mondo. Fossi in te mi vorrei suicidare. Abbiamo solo toccato il fondo. Ora dobbiamo iniziare a scavare. E allora pronto. Parte la bomba, porta di bonghi, parte la conga, sira di zombie, suona la tromba, o si fa festa oppure la tromba, dal menarito al noto morito, dallo sceriffo al danno al bandito, il parte aperto ed è già partito, tutti esauriti, tutto esaurito. Pronti, parte la bomba, porta di bonghi, parte la conga, sira di zombie, suona la tromba, o si fa festa oppure la tromba, dal menarito al noto morito, dallo sceriffo al danno al bandito, il parte aperto ed è già partito, tutti esauriti, tutto esaurito. Siamo in onda. Siamo in onda. Dimmi. Dimmi tu. Perché sei così confuso? Io confuso? Ti vedo così perso. No, è da tre ore che dici no. Così adesso, confuso. Adesso parto io con Vustak. No, niente. ti vorrei parlare, per chi non lo conosce, il Festival di Vustak. Allora, il Festival di Vustak si svolse in un piccolo stato rurale di New York, il 15 chiamato? Agosto, chiamato Woodstock. Woodstock, che prese il nome della città di Woodstock, che è la cittadina dove era. E quindi la città si è svolto presso Woodstock. No, ma la città si chiamava Bentel. Vabbè, significa tipo come Palermo Villabate. Bravo. Ed è stato dal 15 agosto al 12 agosto del 1969, all'apice del movimento hippie. Quindi vi lascio immaginare. Hippie, urrà. Conosciuta per le sue attività artistiche, questa città, perché era molto artistica. Mi dica, allievo. E fu l'ultima grande manifestazione del movimento che da allora si diffuse, peraltro, sempre più fuori dagli Stati Uniti. Ora decidete voi che voto dare al vostro caro. Stai zitto e fammi parlare, che non ti ho interrotto quando hai parlato del tuo argomento noioso. comunque, Woodstock, ovviamente. Sì, la cosa bella di Woodstock è che Woodstock. Non ci sono state. C'era tanta gente, qua si sta parlando, che secondo forti dicono fonti non certe, addirittura 1 milione di persone, ma 500.000 sicuro. È a metà. Che sono a metà. Stiamo riendo. Però voglio capire, lo sai da chi è stato creato questo festival? Da tre ragazzi che volevano fare un festivalino tra amici. Io e mamma detto. Io e mamma detto divento 500.000 cristiani. Aspetta, l'hanno saputo gestire. Ora. Tu pensa alla nostra radio e cosa diventerà un giorno? C'erano musicisti e gruppi per più noti di allora, che si alternavano sul palco, l'esibizione non smise, smise un giorno dopo, perché era troppo colossale come cosa. La cosa bella, il tutto condito da quantità enormi di canapa e LSD. Ora vi racconto una cosa che ho visto nel film documentario di Woodstock, che è stata una cosa che onestamente mi ha colpito. Praticamente dice che la gente, c'erano bambini, c'erano famiglie, ragazzi, che? Mi fai vai, tagliata, vai. Tranquillo, dai, parla! Dico, c'erano famiglie, ragazzi, e non c'erano episodi di violenza, e c'era un'altra cosa, la gente si drogava. Praticamente cosa faceva? Si faceva di LSD e di acidi. Quando uno si fa di LSD inizia a avere delle visioni, no? Tipo impazzisce. Allucinogeno. E cosa facevano? Praticamente c'erano dei punti dove la gente che smetteva di avere le allucinazioni si prendeva cura di quelli che avevano le allucinazioni. Quelli smettevano di avere le allucinazioni e si prendevano cura degli altri che avevano le allucinazioni. Capito? Era un aiutarsi, un seguirsi da aiutarsi. Pietro, c'è un lucinogeno. Un lucinogeno. Comunque, volevo dire poi... E dici, nel frattempo mandiamo Woodstock? No. Di Crosby, Steel, Nash. Dai, mandiamola che poi vi dico l'ideazione del festival. Ecco, bravo. Ti voglio bene. Mi prendo cura di te, non ti preoccupare. Grazie. Child of God, he was walking along the road, and I asked him, tell me, where are you going, Mr. Coleman? Said, I'm going down to Las Vegas, I'm gonna join in a rock and roll band. Got to get back to the land, set my soul free. We are stars, we are golden, we are blue. Magnifiche, quant'è che avete dato a Pietro come voto? Vai a cacare, va. A chi mi ha dato il voto pure, va. Fate l'amore, non la guerra. Amore, ragazzi, fate amore con chiunque, basta che lo amate. L'amore. L'amore. L'amore è bello, ragazzi, l'amore se è bello. Se non è litigarello, dai, diciamolo. Cercatevi in questo momento. Finisci. Amatevi. Chiari. Amate il vostro corpo. Perdonate questo povero pollo di Pietro, che... Ragazzi, ho appena iniziato a fare... È impazzito. Dice che mi ispiro al sesso. No, questa è sensualità, non è sesso. No, io ho fatto la distinzione che tu non proprio evidentemente allora, non riesci a capire. Si parlava della scelta del luogo. Ti tolgo il microfono. Dai, la scelta del luogo. No, non è vero, non sto parlando della scelta del luogo, mi fai confondere. L'ideazione del festival. Allora, i promotori del festival sono stati, di Woodstock sono stati, Michael Lang, John Robert, Joel Rossman e Artie Kofeld. Non so se si pronuncia così, però sono stati questi 1, 2, 3, 4 tizi. Allora... avevano pubblicato un annuncio sul New York Times sul Wall Street Journal, presentandosi come College International Ltd. Dai, coglione, mica ti ho fatto questa cosa sulle tue menate della chiesa, della guerra. Comunque, è nato tutto così, in maniera molto... Ah, se voi andate a vedere le foto, è nato tutto in maniera molto, molto stupida. Tipo, c'avevano un palco che era fatto tipo con le come si chiamano? Le pedane. Proprio una merda, faceva cacare. E pensare che ci sono stati cantanti su quel palco come... Ce lo dice il nostro Riccardo che si è informato. Come... Bob Marley. Ma che Bob Marley? Non c'entra niente, non c'era Bob Marley. Jimi Hendrix. Julian Joplin, una grandissima Joplin. I Led Zeppelin, poi Jimmy, poi il chitarrista, dai. Jimmy Hendrix, altro chitarrista, Santana, bravo Santana. Dico, ci sono stati grandissimi. Ma Marley non c'era. Non penso c'era. Poi non lo so, però comunque penso che non c'è, no? Perché comunque lui è Bob Marley è di religione Rastafari. Quindi sono... E quindi? Non abbraccia la cultura hippie. E quindi il top. Comunque, io ora vi posto sul gruppo il film documentario di Woodstock, perché io non sono bravo a spiegarlo, ma il film ve lo dovete vedere. Cazzo, sei in radio, infatti dice no, non sono bravo a spiegare. Non sono bravo a spiegare, io con le parole non sono bravo, sono uno che fa radio che non è bravo con le parole. Che cosa ci posso fare? Allora, vi mando ora... un pezzo del mio cuore. Beh, prendete Eddie Joplin, di Janis Joplin, è bellissimo. Piece of my heart, è bellissimo. Public can. Honey, you know I did. And each time I tell myself that I, when I think I've had enough, I'm gonna show you, baby, that a woman can be tough. I want you to come on, come on, come on, come on and take it. Take another little piece of my heart now, baby. Streets looking good, and baby, deep down in your heart, I guess you know that it ain't right. Never heal me when I cry. Baby, I cry all the time, but each time I tell myself that I, when I can't stand the pain, but when you hold me in your arms, I sing it once again. I said, come on. Peace and love. No peace and love, peace and love. Parrino love. I love my parrino. Y Pietro ancora non ha capito la differenza tra sesso e amore, secondo me. Non è assolutamente. Sei tu che non ami il tuo corpo, Riccardo. Toccati. Ecco, grande saggio dice: solo quando tua zanzara ti si posa sulle palle, capisci che i problemi non si risolvono ricorrendo alla violenza. Questa ce l'ha mandata Noelia. Bella, mi piace questa. Onestamente, ti si posa una palla. Una palla sulle zanzare. Se ti si posa una zanzara sulle palle, ovviamente non ti ci dai una manata sulle palle. È ma solo la grattatina. È schifo. Comunque, hai scelto di scegliere. No. Quindi? Ma io manderei Full Metal Jacket. Direttamente? In chiusura? Mandiamo in chiusura. Sì, dai. Dai, che per oggi chiudiamo prima. Anzi, già abbiamo fatto il record. Quanto è che siamo io? In onda siamo da 50. Un cazzo, perché minchia, di solito 56 facciamo minuti. Facciamo un'ora e 30. Comunque, se vedete, sono migliorato molto con le parolacce. Cazzo, minchia, culo, non lo dico più. Però l'ho detto in video. L'ho detto adesso. È per poter arricchire. No, sto scherzando, ti voglio bene, Parrino. Anzi, dobbiamo dire che oggi stava male. Io pure sto male alle placche alla gola, ma sto parlando. Però siamo tranquillo, qua. Tranquillo, un attimo da prendere sul posto. Ma lo facciamo perché ci divertiamo. Va, onestamente ci divertiamo, ci facciamo un sacco di risate. Ma se ci ha ascoltato o non ci ha ascoltato, onestamente, noi non ce ne fotte un cazzo. Non è vero, no, lo dobbiamo dire. Non è vero. Perché cazzo non ci caga nessuno sul gruppo. Ecco, guarda, se è pure andato, uno se n'è andato. Chi è che se n'è andato? Ah, lo so io che se n'è andato. Lo so io chi se n'è andato. Ma non mi interessa. Dai. Comunque, finiamo con non fate la guerra, ma fate l'amore. Fate la pace, ci vuole pace, pace e ridere, ridere. Vedi Riccardo, io e Riccardo siamo diversi. Ti giuro, facciamo l'amore, per questo no, non succa, non è facciamo l'amore, però siamo diversi, ma non è che ci odiamo. Pure io dico, ah, minchia, chi do un parrino in merda, chi do va in chiesa, chi do è tutto mongo. No, oppure lui dice, minchia, dai, che scafazzato chi do, fa schifo. Scafazzato lo dico. Vabbè, io pure ti dico parrino. Però dico, non è che mi dice che quella è una persona di merda. Chiudiamo no. Con sempre con Full Metal Jacket. Oggi ce l'abbiamo presa un po' con ci me. Vogliamo bene. Con la marcia finale, dove questi qua completamente alienati tornano a casa dopo la guerra. Cantando. C'è quello che fa delle allusioni alla sua bella ragazzina. Cantando Mickey Mouse, praticamente. Viva viva Topolin, praticamente, vedi i soldati dopo aver ammazzato un casino di gente. Cantano questo e c'è finalmente questo ragazzo e dice, finalmente è il ritorno della mia ragazza. Cioè, ah, non vi dico che godetevela. Per oggi abbiamo scolpito abbastanza i nostri nomi nelle pagine della storia. Ci mettiamo in marcia per il fiume dei profumi per passarci la notte. Mickey Mouse, forever let us hold our banner high, high, high, high. Boys and girls from far and near, you're welcome as can be. M-I-C-K-E-Y, M-O-U-S-E, I miei pensieri vanno di nuovo ai capezzoli eretti, alle eiaculazioni notturne, ai sogni bagnati di Mary Jane Ficarotta, alle fantasie dell'immensa scopata al ritorno a casa. Sono proprio contento di essere vivo. Tutto d'un pezzo. Prossimo al congedo. Certo, vivo in un mondo di merda, questo sì. Ma sono vivo. E non ho più paura. Hey there, hi there, ho there, you're as welcome as can be. MICKEY. Un bacione a tutti quanti, quelli che ci hanno sopportato in questa ora benedetta. Vi salutiamo, un bacione a tutti quanti da Riccardo. E dal vostro amorevole Pietro, il miglior speaker di Pianerottolo Caffè. Oh yeah. South side, step up and get you a slice. East side, step up and get you a slice. West side, step up and get you a slice. North side, step up and get you a slice. Chi-town, step up and get you a slice. LA, step up and get you a slice. NY, step up and get you a slice. It's just a slice of the devil's pie. Oh, come on. Soon as I say, yeah, they say, think I'll be trapped. What we gon' do? When it comes back round to us, when it's all for us, same. Every day, girls, guns, dances, and us. And what we gon' do when it all comes back from us? Look. Times is hard, life is hard. I lost my job, baby, oh my God. My wife is nauseous, she pregnant as hell. My mistress on the sale saying she gon' tell. My uncle in the sale saying he won't bail. My granddaddy KC claiming he need braille. I'm fighting for strength, in the street grinding for cents. I know I'm ahead of my time, but I'm behind on my rent. Asking Kanye for money just to pay him a gas bill. He asked me for a back, nigga, brush up on your math skills. Nothing plus zip equals zero. He couldn't relate, that nigga ain't been broke. Ace to the Izzo. That's when my man Riddle stopped by with two little bills I could put in the bag and sell like Skittles. One for 10, 15 for 2. Now tell me, what the fuck am I supposed to do? Soon as I say, God, we trust. What we gon' do, when it comes back down to us. Take a neighborhood full of homie blacks, mixing three beeper shops, two liquor stores, and one laundromat. No banks, just a check and a go. Everywhere you go, you don't wanna add too much dough. We gon' make a taste of pastry that you can't get in a bakery. I'll picture hopelessness from slavery. Can you smell it yet? A few churches that almost care. I know you heathens ready to eat. We almost there. Somebody pass a couple of gangs of Glocks. Politicians and crooked cops sprinkle poverty on the top. Voila, couldn't be faster. Recipe for disaster. Gunshots. The devil's laughter, like you tried to play fun, your ass lost. Then you tried to get gangsta, homie, you masked out. Overcrowded jails, putting pounds on ash crop. Don't forget the glaze, your devil's mind, the crack sound. As soon as I say, yeah, they say, God, we trust. What we gon' do, yeah. When it comes back down to us. Every day. What we gon' do, when it all comes back. Now George Bush, step up and get you a slice. Tony Blair, step up and get you a slice. Rumsfeld, step up and get you a slice. Condi Rice, step up and get you a slice. Wait, I'ma step up and get me a slice. My baby mama stepped up and get her a slice. Everybody step up and get you a slice. Just a slice of the devil's pie. Oh, come on, I said, step right up. Hear me clearly. This here more than theory. Young males facing judge and jury. Black filled with fury. First time I met my dad. Through a cell wire and phone, wire and home. Back in my cell and dying alone. Praying to God like I'm writing the song. Asking the Lord, why ain't I home? Regardless of what I was on, I know you the king. Tell Satan now I'm on my thing. Slinging them O's and I got my soul in the sling. I know I messed up a couple of times. Busting lies on anybody fucking with mine. When my life got disastrous, I was blasphemous. I know my mama didn't ask for this. You got them demons waiting for me with the caskets lit. Please, Lord, let this bastard live. Soon as I'll say, you gotta be trapped. Let me sing it with you. What we gon' do when we don't come back down to us? Every day, every day, girls gon' space is in love. What we gon' do when it all comes back on us? Yeah, yeah. Shot down in the house. Five flats in the house. Yo, Mark, let's get out of here, nigga. We ain't gonna get up on these guns. Reflexes are the better of me. And what is to be my Thank you.